Ricordo che quando tantissimi anni fa avevo incontrato per la prima volta i romanzi di Raymond Chandler, ero restato affascinato, tra l'altro, dalla ricetta del cocktail che Philip Marlowe era solito bere nei loro fuggevoli incontri pomeridiani in qualche tranquillo bar fuori mano con Terry Lennox, l'amico che alla fine lo avrebbe tradito. Si chiamava Succhiello, ed era composto, stando al testo in mie mani, da un 50-50 di gin e sciroppo di cedro con uno schizzo facoltativo di amaro. Io all'epoca non mi intendevo affatto di cocktail, ma quella mistura di dolce, di aromatico, di amaro e di secco mi sembrava interessante, e mi sarebbe piaciuto bere qualcosa del genere con un amico in un tranquillo bar fuori mano, anche a rischio di scoprire, come il povero Marlowe nel lungo addio, che quell'amico dopo tutto non era così disinteressato come sembrava. Ma di bar che preparassero cocktail, ahimè, non ne conoscevo. Forse a Milano ce ne saranno state due o tre all'epoca. E i miei tentativi di applicare in proprio quella ricetta producevano invariabilmente dei beveroni talmente dolci, talmente stucchevoli da stomacare, non dico un romantico investigatore privato, ma un rinoceronte dai gusti appena appena coltivati. Dopo varie esperienze non propriamente gradevoli, ero così arrivato alla conclusione che gli ingredienti di cui disponevo non fossero per un motivo o per l'altro paragonabili a quelli in uso in California. In effetti, come avrei scoperto molto più tardi leggendo gli originali, lo sciroppo di cedro avrebbe dovuto essere in realtà del lime cordial, che è tutt'altra cosa, e per lo schizzo sarebbe stato assai più opportuno ricorrere più che all'amaro, all'angostura bitter, che nel nostro paese era del tutto sconosciuto. E quindi non pareva la pena di insistere. Ma devo ammettere, come non è, che per anni l'idea di un succhiello, di un gimlet nell'originale, gimlet vuol dire appunto succhiello come risulta da ogni buon vocabolario, e mi ha variamente allettato, entrando a far parte a pieno titolo del mio immaginario alcolico e letterario. Il nome certo poteva suonare un po' strano, almeno in italiano, ma in fondo il succhiello è un qualcosa di acuto e di penetrante, come l'intelligenza di un grande investigatore, ed era fin troppo ovvio che un detective in gamba come Marlowe non bevesse nient'altro. Anzi, ero arrivato a concludere che la scelta di quel nome fosse stata da parte dell'autore una raffinatezza voluta, una strizzatina d'occhio rivolta a quei pochi lettori abbastanza perspicaci come me e per afferrarne il senso riposto. Ahimè. Scopro oggi in un vecchio numero dell'Espresso che anche questa era un'illusione. Il gimlet, che figura con gli stessi ingredienti sia pure in proporzioni diverse nell'elenco ufficiale delle ricette dell'International Bartender Association, deve il suo nome a quello del suo inventore, tale T.O. Gimlet, scritto con la doppia tira E finale, ufficiale medico della Regia Marina Britannica verso la fine del XIX secolo, un personaggio di cui oggi non si sa granché, ma che ai suoi tempi ebbe una certa fama, al punto da conseguire, non so se per meriti alcolici o navali sanitari, il titolo di baronetto. Il traduttore del lungo addio, evidentemente, era affatto ignorante in materia di cocktail, proprio come me, e aveva reagito alla sfida del testo come aveva potuto, aveva consultato il vocabolario e aveva fatto diventare il gimlet un succhiello, secondo la stessa logica con cui aveva trasformato il lime cordial in sciroppo di cedro e il bitter in amaro. Bitter vuol dire amaro, in effetti. E questo significava, in ultima analisi, fornire ai destinatari del suo lavoro, a noi lettori, delle informazioni totalmente ingannevoli, ma la narrativa è narrativa. E in narrativa, grazie al cielo, non esiste un'informazione abbastanza sbagliata da non essere sanabile in qualche modo con un po' di lavorio mentale da parte dei lettori. Il tutto, naturalmente, conferma una verità che gli addetti ai lavori conoscono già. Per tradurre, non è necessaria una gran conoscenza della lingua d'entrata e non basta, anche se è indispensabile, saper dominare la lingua d'uscita. Il problema, che è molto più spinoso, è quello di condividere la cultura dell'autore, di saper decifrare le sue allusioni e di cogliere il senso dei suoi riferimenti anche i più casuali, perché si può leggere l'inglese come se fosse la propria lingua madre, si può scrivere in un italiano degno delle lodi dei puristi della Crusca, ma si può sempre scivolare di brutto sulla ricetta e sul nome di un cocktail. Tradurre è un'impresa a ben pensarci da far tremare le vene e i polsi. E in effetti, se oggi ripenso alle 20 o 30 opere di narrativa e saggistica che portano la mia firma di traduttore, mi sorprendo a chiedermi quali immani bestialità posso essermi lasciato sfuggire senza essermene nemmeno accorto. Se ve ne accorgeste voi, se ve ne capitaste sott'occhio qualcuna, per favore non fatemelo sapere.